mai. Non ho pensato a lei che morirei. Se non sapessi che fra poco tempo ritornerò e per noi ci sarà anche il tempo della felicità. Dile che lei deve aspettare perché tornerò. Se mi aspetterà, tu che lo sai, tu devi dirle che quando vedo un'altra donna penso soltanto a lei. Quando ritornerà mai non dire niente, io partirò lo sai, non dire niente, non dirmi niente mai. Yo partiré, lo sabes, no diré nada.